credo che è molto strano quello che riusciamo a vivere oggi ed è pazzesco il modo in cui ci relazioniamo all'amore e a questo sentimento. In realtà io credo che abbiamo un'idea molto distorta, seppure abbiamo capito molto bene oggi, veramente grazie Mirko, non so se sei ancora qui, il tuo messaggio è stato pazzesco, ci ha dato un'ottica nuova riguardo a quella che è la relazione con Dio e quello che è il suo amore per noi. Però un'altra cosa importante che Dio ha stabilito nella nostra vita, non solo un'idea di relazione con Dio, ma una relazione con gli altri. Questa cosa, per me, stare qui è difficile, perché io non sono la persona migliore per predicare questa cosa e devo dire che quando dobbiamo affrontare questo argomento abbiamo sempre qualcosa che non va. Come dice, ok, c'ho mal di denti, c'ho male al dente, ti fa male, ma al dentista non ci vai. Perché dice, no, guarda, piuttosto che trovare togliermi il problema, mi tengo il dolore di denti. Però a un certo punto questo dolore diventa insopportabile e prima o poi il dente te lo devi togliere. Allora oggi tu ti toglierai il dente, spero solo uno. Magari ce n'è pure uno di più, speriamo di no. Comunque quello che intendevo dire è che la società odierna ci ha molto distrutta la visione delle relazioni. Uno per tutti, e io non sono contro internet perché il mio lavoro funziona su internet e io davvero sono grato a Dio che ho questo lavoro, però allo stesso tempo sono profondamente preoccupato quando penso a quello che sono oggi le relazioni non relazioni. E quando mi riferisco a questo, parlo soprattutto di Facebook, no? Oggi davvero quando tu pensi all'amicizia, al numero delle persone che hai nel tuo giro di influenza, nel tuo giro di persone che conosci, dici ok, io ho un sacco di amici su Facebook, quanti ce ne hanno più di 1000? Sì, su Facebook, appunto, caspita, siete proprio popolari. Io sai, non ne ho tanti. Chi ne ha più di 2000? Giusto per sapere. Mannaggia, che sei? La figlia di Justin Bieber. Io ne ho circa 860, qualcosa del genere. Però se tu ti rendi conto, è vero che c'è un sacco di amici su Facebook, però quando devi uscire c'è sempre con quei quattro scemi che sono li chiami e sono disponibili. Ma è normale, ma allora c'è qualcosa che non va. Questi qua sono amici o non sono amici? In realtà io preferirei che potessimo controllare questo nome amicizia e dire ragazzi, forse sono persone connesse a noi, ma non sono amici. Perché che cos'è veramente un amico? Per non parlare poi di tutte quelle che sono le relazioni che viviamo e che la gente vive intorno a noi e sono sempre più superficiali, sempre più senza un senso. In gran parte delle cose, dopo la rivoluzione sessuale degli anni 70, è diventato un uso comune l'idea di andare a finalizzare la nostra relazione sentimentale con il sesso. Ma dove? Cioè abbiamo saltato tutti i passaggi, tutta l'idea dell'impegno, del corteggiamento, dell'innamorarsi, del essere, come dire, in qualche modo devoti verso un'altra persona per poi andarci a prendere il risultato finale, che il risultato finale non è perché è una superficie di qualcosa che è molto più importante, molto più incredibile, fondamentale, un regalo bellissimo che è il matrimonio. Insomma, queste relazioni in realtà sono state pensate bene da Dio, perché Dio, quando ha pensato all'uomo, gli ha detto, ehi, cioè non so a chi si è rivolta, ha detto, ehi, non è buono. E non lo so, probabilmente era una cosa autoreferenziale, trinitaria, a reti unificate, hanno detto, ehi, non è buono. Come non è buono? Non è buono che l'uomo sia solo. E allora, sapete, la storia è stata messa accanto a lui una donna. È così? Chi conosce questa storia che non la dico? Ah, non la conosce nessuno. Molto bene. Allora, nel principio Dio creò i cieli e la terra. Vabbè, vado avanti, va, faccio finta che state attenti, per piacere, non mi lasciate da solo, che già sto tutto così qua. Le relazioni. Dio le ha pensate in maniera stupenda. Io credo che una delle cose era un iPhone 6, mi dispiace. Scusa. Ho dolore per te. Dio ha pensato le relazioni. Come on. Vuoi un guscio nuovo, una cover? Dai, fatela regalare, domani è San Valentino. Dio ha pensato alle relazioni in una maniera stupenda, ha detto, oh, che bello, io voglio creare per te il massimo. Sapete, il primo legame che noi viviamo nella nostra esistenza è la nostra famiglia. Una cosa che probabilmente sottovalutiamo tantissimo è il fatto che noi nasciamo in un nucleo familiare dove possiamo ricevere e dare. Che bello. Il primo clima, il primo esperimento di relazione che noi abbiamo nella nostra vita è la nostra famiglia. Capisco che probabilmente anche qui il diavolo ha guastato parecchio, dai, anche il senso comune dell'età moderna ha distrutto il senso vero della famiglia. Ma che bello quando tu sai che ti alzi la mattina e c'è il latte caldo e poi ti comprano i vestiti e tu gli svuoti il frigorifero. E, insomma, sai che puoi contare su una cosa tranquilla, dove tu puoi stare, perché nessuno ti dice no, va bene così, ti vogliamo bene. Ma è vero, la famiglia è un paracadute affettivo. Avete idea di che cos'è un paracadute? Ma tu ti lanci eppure questo paracadute è pronto a salvarti la vita. Che bello, è rassicurante sapere che appartiene a un nucleo familiare, che hai un padre, una madre, che hai dei fratelli. Ed è bellissimo perché tu puoi essere te stesso in questo clima, in questo ambiente, dove nessuno ti andrà a dire vabbè, ma quello è così. Ovviamente ci saranno problemi e io so che ce ne sono problemi. Non voglio fare finta di niente, lo so che ci sono problemi e so che magari tua madre non è come dovrebbe essere e tuo padre che era un supereroe quando eri piccolo adesso è uno che eviteresti per strada e non lo vuoi salutare. Però questo è davvero stupido perché è un regalo bellissimo sapere che appartieni in un ambiente che Dio stesso ha provveduto per te, che è la famiglia. Che bello! Che bello, perché è un posto dove tu, ripeto, puoi salvarti la vita. Perché anche quando tutto il mondo ti sta contro, sai che vai a casa, al calduccio, e qualcosa di buono c'è per te. Non è bello questo? Potete dire sì? Ok, grazie, grazie. Sapete, è un modello bello, perché è un modello pensato per immaginare una cosa bella, che è l'amore che Dio ha per noi. Perché è un posto dove tu ti senti al sicuro, dove qualcuno ti protegge, dove qualcuno ti ama incondizionatamente. Io non posso immaginare la mia relazione con Dio così, perché se dovessi pensare che io posso meritare il suo amore, l'abbiamo sentito, io non potrei assolutamente reggere questo confronto. Come faccio a meritarmi l'amore di Dio? Ma Dio è Dio e io sono così. E invece Lui mi ama. È come quando sono figlio, sta scritto sul certificato che tu sei figlio di qualcuno. È impossibile che qui non c'è qualcuno che sia figlio. Tutti voi siete stati generati, tutti voi avete un padre e una madre. Meraviglioso. E questa cosa non la cambia nessuno, ma neanche se vuoi. Tu sei figlio di qualcuno e puoi dire che ho questo status che nessuno, nessuno può cambiare. Meraviglioso. È un ambiente non solo protettivo, ma anche dove tu impari a essere chi sei, dove tu hai un ruolo, dove i tuoi genitori sono tenuti a mantenerti, a curarti, ad accudirti, a nutrirti, a darti tutte le cose buone e tu sei figlio. naturalmente che cosa ti chiederanno? Di pulire, sparecchiare, ti daranno delle piccole responsabilità, no? Giusto? Chi lo fa? Ammazza, oh, quanti... Belle famiglie che ci avete, bravi, bravi, bravi. No, dico, ognuno ha il suo ruolo in casa. Ed è bello perché quando analizziamo la famiglia come un modello divino, è meraviglioso sapere che io ho un posto preciso nel posto che Dio ha voluto. E che io posso imparare a vedere qualcuno in responsabilità su di me e io posso sapere che qualcuno si prende cura di me. Che bello. Questa cosa quanto è stata sfasciata? Quanto è stata sfasciata? Papà, tu non capisci niente. Ma che cosa stai a dire? Ma tu non lo sai. Non sai manco chi è Dragon Ball. No, cioè, trattiamo veramente i nostri genitori come dei deficienti. Ma probabilmente avranno pure un'altra cultura, ma avranno un altro modo di pensare. Però sono le persone che noi dobbiamo rispettare, che noi dobbiamo amare. E sono le persone più vicine a noi. Fantastico. Abbiamo un'opportunità di rapportarci a un'immagine come quella di Dio per noi. E sapere che possiamo tenere in onore i nostri genitori. Che cosa vuol dire tenere in onore? È proprio questo. Cioè, quando tu vedi qualcosa che non va, tu ama, ama, continua ad amare. Tieni in rispetto le persone che sono in autorità su di te. Tieni in amore le persone che sono in autorità su di te, perché loro si meritano quello. Dio l'ha stabilito, Dio l'ha detto in uno dei comandamenti, scusate, non mi ricordo l'ordine, però era il quinto, no? Ama tuo padre e tua madre, onora tuo padre e tua madre. Avrà senso. Cioè, tra tutte le cose che Dio ci poteva chiedere, ha detto onora tuo padre e tua madre. Perché questo è un legame importante, questo è un filo importante. Sapete, noi abbiamo rappresentato questa scenografia, anche la locandina, l'immagine che, di questo evento, come tanti fili che si concentrano in un punto. Perché questo legame della tua famiglia è un legame che Dio ha voluto ed è concentrico a Cristo. Va dritto lì. E appartiene a Dio. Dio lo ha stabilito e lo vuole tenere incollato a Lui. Se in questa partita tu giochi un ruolo e vivi in una famiglia, in questa partita, se fosse una partita, tu vinci 1-0. Perché prendi tutto e non dai niente. Perché in questa relazione tu prendi amore incondizionato, prendi nutrimento, prendi sostegno e tu devi dare al massimo il tempo, i servizi e l'affetto che puoi nel tuo ruolo, ovviamente, perché non è che puoi amare più dei tuoi genitori probabilmente, perché loro ti amano di più. E in famiglia tu prendi più di quello che tu puoi dare, di la verità. Se questa fosse una partita, tu vinci 1-0. È così, dai, siamo onesti. Poi ci sono, cresciamo, no? Abbiamo un'altra idea di che cosa sono le persone intorno a noi. Già da quando vai all'asilo incontri l'amico scemo che ti picchia. Non so, però io ce l'avevo, non so perché. Io ispiravo una persona a picchiarmi. Però io dicevo, ma io ti voglio bene, perché mi picchi? E continuo a dirglielo perché siamo molto amici. Ed è fantastico perché ti ritrovi con persone che non hai mai conosciuto nella tua vita, che tu pensavi che il tuo mondo fossero i tuoi fratelli, tua madre e tuo padre, che tutto fosse lì il tuo universo, invece poi inizi a capire che ci sono delle persone intorno a te che con cui inizi a relazionarti, con cui inizi ad avere tempo insieme, divertimento, sai che hanno le tue fasi di crescita e poi inizi a condividere i compiti insieme e poi si inizia ad uscire insieme, poi si inizia a spendere tempo, ci si diverte da matti e vedi che gli interessi in comune aumentano, che bello. Ci sono delle persone straordinarie che noi chiamiamo amici. Ora, definirlo bene bene, io non lo so, però ci proveremo. Siete ancora con me? Sì? volevo mostrarvi la teoria del dottor Sheldon Cooper. Oh, siete arrivati al momento giusto. Credo di aver inquadrato l'algoritmo per farsi dei nuovi amici. Sheldon, non esiste un algoritmo per farsi degli amici. Aspetta, se ha davvero scoperto qualcosa, potremmo aprire uno stand al Comic-Con e farci dei soldi. Vedete, il mio approccio iniziale con Creep, che aveva le stesse lacune che affliggevano Bua il Cacatua quando arrivò allo zoo. Bua il Cacatua? Sì, che arrivò allo zoo. È un libro magnifico e io ne ho distillato l'essenza ricavandone un diagramma di flusso che mi farà da guida. Mai pensato a rinchiuderlo in una cassa quando devi uscire da casa? Pronto, Kripke? Sì, sono Sheldon Cooper. Sono arrivato alla conclusione che non hai risposto alle mie chiamate perché non avevo avanzato proposte concrete per approfondire la nostra amicizia. Quindi pensavo che noi due potremmo andare a pranzo insieme. Sì, capisco. Allora magari puoi trovare il tempo per una bevanda calda. Le scelte più comuni comprendono tè, caffè e cioccolata. Capisco. No, aspetta, non attaccare. Senti, che ne diresti di un'attività ricreativa? Scommetto che abbiamo un sacco di interessi in comune. Dimmi almeno uno dei tuoi interessi. Ah, davvero? Su cavalli veri? Dimmi un altro dei tuoi interessi, per favore. Oh no, mi dispiace, non voglio entrare in acqua a meno che non sia assolutamente necessario. Dimmi un altro dei tuoi interessi. Oh, è bloccato in un loop infinito. Ci penso io. Interessante, ma il ventriloquo non è per definizione un'attività che si pratica da soli? Sì, dimmi un altro dei tuoi interessi. Per caso ti piacciono le scimmie? Ehi, ma che cos'hai che non va? A tutti piacciono le scimmie. Resta lì, Kripke. Un contatore di iterazioni e un'uscita dal ciclo all'attività meno discutibile. Howard, è davvero geniale. Strano che sia un'idea tua. Cavolo, perché Sheldon avrà pochi amici? Va bene, Kripke, l'ultimo interesse che hai elencato mi sembra il meno discutibile e in virtù di questo vorrei proporti di farlo insieme. Domani. Sì, pago io. Bene, a domani. Perfetto. Impariamo l'arrampicata su roccia. Che carino, no? Fa morire questo, veramente è troppo forte. Capite? Lui ha ideato un sistema a prova di bomba, come tu puoi sapere di uscire con qualcuno, con tutte le opzioni e tutti i diagrammi di flusso, se è così, allora così. In realtà non si può, perché in realtà noi siamo persone tutte diverse, tutte con gusti differenti, però abbiamo qualcosa in comune. Le relazioni. Abbiamo bisogno di stare insieme a qualcuno. Non possiamo pensare di isolarci, di chiuderci noi stessi, di distruggere la nostra vita in maniera egoistica, perché se ti isoli, detto chiaro, e capita, no? Perché se a un certo punto della tua vita ci arrabbiamo con il mondo, è vero, diciamo io non voglio vedere nessuno, ma non è così, perché in realtà tu sei programmato, perché Dio ha detto non è buono che, ti ricordi? Non è buono che, quindi è molto importante che tu abbia relazione, che tu viva sane relazioni e che siano importanti. Noi abbiamo un'opportunità bellissima, che sono le persone che viviamo, con cui viviamo anche questa realtà della Chiesa, no? Il fatto di trovarci insieme, di avere relazioni. Ragazzi, questa è un'opportunità più che unica e rarissima, davvero, perché le persone che sono accanto a te hanno sperimentato Gesù e tu hai qualcosa di profondamente in comune con queste persone e puoi condividere delle cose molto importanti, che non è solo ok, ti faccio lo studio biblico quando esci, no. Puoi stare insieme, vivere insieme, avere sano divertimento, gioire insieme anche di cose stupide. Adesso non metto in imbarazzo nessuno, però avrei un sacco di storie a riguardo. Sapete, se c'è una cosa che mi piace della Bibbia, che su tanti argomenti, tante cose sono veramente chiare, e noi ci complichiamo la vita per niente. Se c'è un verso che parla profondamente dell'amicizia in maniera chiara, e Proverbi 17:17, quanto è bello. Chi lo sa, sta scritto. L'amico ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella sventura. L'amico ama in ogni tempo, quindi se c'è qualcosa che ti turba, che non sai se catalogare X come tuo amico o Y come tua amica, allora vorrei che ti rilassassi. Questo è un criterio facile, è un teorema, è più bello di quello del dottor Cooper. Questo è più facile. L'amico ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella sventura. Quindi notiamo due cose. È facile, questo teorema funziona, applicalo e funziona. L'amico ama in ogni tempo. Se le persone intorno a te spariscono, forse non erano buoni amici, o non erano amici tuoi, oppure tu l'hai fatta proprio grossa e sono scappati via. No, non lo so qual è il caso, però se tu hai degli amici, questi amici ti saranno fedeli, saranno vicini a te sempre. È così. Io ne ho pochi, ma buoni. Davvero, potrei contarli pure sulle mani, sulle dita della mia mano, ma non mi importa, perché io so che queste persone non verranno mai meno, a cominciare da mia moglie, che è la mia migliore amica. Grazie. E un altro principio è nato per essere un fratello. Ti puoi fidare, ti puoi fidare, ti devi fidare. Mannaggia, è brutto rischiare, dai, non vogliamo mai metterci in discussione, sappiamo che dobbiamo pagare un prezzo alto, no? Che in qualche modo ci costa dire ok, voglio impegnarmi con te. La superficialità delle nostre relazioni oggi, ne parlavamo all'inizio, è così, cioè ci porta completamente a consumare l'idea dell'amicizia, è diventato un qualcosa di consumistico, no? Oggi mi impegno tot perché potrò ricevere tot, no? È un po' oggi esco con tizio perché mi va, domani esco con qualcun altro perché non mi va. Semplicemente usiamo il nostro modo di creare le relazioni. Siamo una specie di popolo cannibale, ci mangiamo, ci consumiamo a vicenda, prendiamo le persone e ce le mangiamo perché in quel momento abbiamo fame e li usiamo. E poi, che facciamo? Poi ci rimangono le ossa. In realtà, dobbiamo uscire da un'idea consumistica dell'amicizia. Non si può, non si può, è sbagliato. Tu sei credente pure. Come fai ad andare davanti a una persona e dire sì, oggi voglio uscire con te, però non mi voglio impegnare troppo. Voglio stare con te, prendere il caffè, però ehi... Ancora ti prendi l'espressino, che io non te lo voglio offrire l'espressino, mi voglio fermare al caffè. Siamo tutti a valutare, a contabilizzare, a fare le somme, a tirare giù i bilanci, questo è buono, questo non è buono. Oh, se vuoi essere amico di qualcuno ci devi rimettere, va bene? Ci devi rimettere, devi dare il meglio di te e aspettarti anche il meglio degli altri. Perché questo crea una relazione, non è mai una relazione a senso unico. Tu puoi dare e sei sicuro che se quello è un amico ti darà, perché è un amico fatto per essere un fratello nella sventura. Quando tu ti trovi nei guai, poi ci sono i veri amici accanto a te. Ci sono le persone che hanno veramente il senso dell'amicizia. E che sanno che ti amano, sanno come sei fatto, sanno che sei pure così, ti vogliono bene. Che bello. Non è un regalo bellissimo. Però se è un regalo, ti devi impegnare non solo a riceverlo, ma anche a darlo. Se l'amicizia fosse una partita, tu vinci, perdi 1-1. È 1-1. Che cosa vinci, che cosa perdi? Vinci divertimento, vi divertite. No, dai, è bello che puoi ridere di cose che solo alcune persone capiscono, altre no. Hai sostegno, hai tempo, dedicazione e hai perdono. Se qualcosa non funziona nelle tue amicizie, è perché probabilmente tu pensi che qualcuno ti abbia tradito e non merita più la tua fiducia. È vero? È successo? È successo solo a me? No? Se siete con me, per favore, potete fare un gesto di vita, grazie. È successo anche a voi, grazie. Bene. Cioè, bene, mi dispiace. Scusate, io ho paura di cadere all'indietro perché c'è un vuoto qua. Devo stare un po' attento. Essere traditi è un'esperienza che probabilmente prima o poi facciamo tutti ed è molto brutta ed è una sofferenza molto grande perché ci fa addolorare. E tu dici, quella persona non merita più la mia amicizia. Allora ti posso dire una cosa? No, non è così, perché probabilmente anche tu hai tradito a tua volta. Se tu non hai mai tradito, per favore, dopo vieni dietro che voglio essere il tuo migliore amico. Perché so che sei perfetto e ti vorrei proprio per sempre vicino a me, vorrei che tu fossi il mio migliore amico. Però siccome probabilmente pure tu hai tradito, allora forse devi praticare una cosa che si chiama perdono. Questo è già iniziamo a tirare il dente, fa male. Mannaggia quanto fa male. Però possiamo anche dare, oltre che prendere. Cosa diamo? Diamo tempo, anche noi diamo sostegno, affetto, diamo perdono, diamo impegno, diamo sforzo. Quindi in questa partita chi vince? Nessuno, 1-1, ok? Risultato 1-1. Una cosa che ci terrei molto a condividere con voi è stata un'immagine che ho trovato su Instagram qualche giorno fa. Non ce l'ho la foto, però ho preso il testo che mi è piaciuto molto. E diceva, fallo semplice, per piacere, non ti complicare la vita. Perché le relazioni, Dio le ha pensate semplici, e noi, se quella ha detto così, è perché pensava così, perché io una volta ho fatto così, e quello mi ha detto così. È così? Più o meno? È interessante questi meccanismi pazzeschi che abbiamo nella nostra testa che creano queste dinamiche dove tu non capisci mai che cosa devi dire quando ti incontri con qualcuno. Ma è pazzesco, non è così. Gesù ha fatto, ha immaginato proprio le reazioni semplici. Io non lo so, non so se avete mai letto quel passo. Lui andò in giro e disse, ehi, venite con me. Ehi, ragazzi, andiamo. E dove? A conquistare il mondo. Un altro. Invece l'hanno conquistato veramente, perché dopo 2000 anni questo gruppo di 12 persone, 12 ragazzi, più o meno della vostra età, anche più piccoli, hanno fatto così tanto casino, si sono così tanti impegnati e divertiti a cambiare il mondo, ci hanno pure rimesso la pelle, piccolo dettaglio, però oggi noi siamo qua perché loro hanno fatto tutto sto casino. Anche tu puoi avere un gruppo di amici che può cambiare il mondo. O ti piace solo prendere il tempo per giocare a risico? Niente di male, per carità, io perdo sempre, non gioco mai. Però se il tuo unico legame relazionale è solo per il fatto di andarti a mangiare la pizza la sera, probabilmente stai investendo molto male nelle tue amicizie, perché nelle amicizie c'è la forza per cambiare il mondo. È bello. Io sono molto amico di mia moglie, come ho detto prima, e se devo pensare a una cosa che ci unisce, mi piace, e abbiamo un sacco di cose che non ci piacciono, però abbiamo una cosa che ci piace, che noi abbiamo la possibilità di lavorare nel regno di Dio. Sapere che io posso fare parte insieme a lei di un cambiamento che sarà eterno, ma mi entusiasma, mi fa sognare. Penso che è la relazione di amicizia più bella che posso avere, perché io da solo non lo posso fare, ma non me lo sognerei neanche, non riuscirei. Però io insieme a te posso farcela. Insomma, non stiamo a perdere tempo, dai raga, veramente, qui abbiamo un sacco di cose da fare e stiamo ancora a cannibalizzarci, ci stiamo a mangiare, perché ci piace consumare gli altri, le cose che ci possono dare gli altri invece di dare. Nell'amicizia tu non perdi, tu non vinci. È una relazione in cui la partita finisce 1-1. E poi, ah, scusate, volevo dirla questa cosa dell'Instagram. Questa cosa diceva: ehi, ti manca qualcuno? Chiamalo. Vuoi incontrare qualcuno? Invitalo. E sta lì, ma non mi chiama nessuno. E tu non ce l'hai il telefono, ti hanno fatto pure il piano 30 ricarica automatica, che poi tutti i messaggi gratis, illimitati, e poi non li usi. E sei scemo un po'. Vuoi essere capito? Spiegati meglio. Hai delle domande che tu vedi una persona in faccia e dici: ma quello chissà che cosa sta a pensare, che cosa sta dicendo, chissà come la pensa lui. E chiediglielo, chiedilo, chiedi. Hai delle domande, chiedi, fai delle domande. Perché non le fai? Perché ti piace restare nella tua aura di perfezione e non ci vuoi rimettere la faccia? È così? Lo so, io mi sto tirando il dente pure io piano piano. E poi cresciamo e ci troviamo davanti alla cosa più bella che ci può capitare, innamorarci. Wow, che è questo romanticone qui dietro. Oh, che bello quando incontri una persona che probabilmente è tra le tue amicizie più vicine e capisci che quella persona ti piace. Ti piace e vuoi starci insieme. Ti piace stare insieme, non vedi l'ora che puoi starci insieme. E quello probabilmente si chiama amore, innamoramento, diciamo così. Che bello, che male c'è? È fantastico, ma Dio l'ha pensato così. E sapete, quando vogliamo costruire in questa direzione, vedete un po' il discorso, un po' il percorso che stiamo facendo. Più cerchi di salire, più diventa più faticoso, più diventa difficile vincere la partita. Se all'inizio tutto ti è dovuto, poi inizi a crescere e sai che non tutto ti è dovuto, pure devi dare. E quando tu sali di grado e aumenti la tua visione riguardo alle relazioni ed entri in una relazione sentimentale, ehi, tu ci rimetti. Ci rimetti, perché quella è una partita che perdi. Ha voglia di dire, io ho diritto a questo e voglio questo da te. Bugia, non puoi, non può succedere. Perché se è vero amore, tu devi dare, se no sei anche lì cannibale, ti mangi il coniuge. È vero che succede pure anche fisicamente. Cioè, ultimamente le notizie sono un po' strane, no? Si sentono delle cose un po' strane. Però è molto importante che quando noi costruiamo in una relazione dobbiamo sapere che ci uniamo a un'altra persona in una maniera emotiva. Che vuol dire quando ci uniamo in una maniera emotiva? Che i nostri sentimenti iniziano a essere costruiti con un'altra persona. Da quel momento in poi, quando entri in relazione sentimentale con qualcuno, tu stai costruendo il tuo paracadute affettivo. Vi ricordate il paracadute della famiglia? Ok, lì stai costruendo il tuo paracadute per la tua nuova famiglia. Stai scegliendo il colore, stai scegliendo la forma, stai scegliendo da quale altezza ti devi buttare. È bello, è bellissimo, perché stai iniziando a mettere insieme dei pezzi che non sono mai stati messi insieme prima. Ed è fantastico, è una cosa che puoi creare da zero. Che bello il matrimonio, che bello l'idea di avere qualcuno in una relazione, perché puoi fare delle cose nuove insieme a qualcuno. Non è fantastico? E poi entri in un'intimità mentale. Che cosa voglio dire? Che quando tu dici ok, abbiamo la stessa mente, non vuol dire che tu hai le stesse opinioni della persona con cui stai insieme o vivi o sei fidanzato o sei sposato. Non è così, perché rimani una persona con dei propri sentimenti, i tuoi punti di vista, le tue convinzioni. Che cosa succede? Quando dico un'intimità mentale, vuol dire che non hai solo delle stesse opinioni, hai lo stesso modo di vedere le cose. Non hai solo un'opinione, ma è una visione insieme. Ed era quello che dicevo prima, riprendo l'esempio che ho detto prima per mia moglie. Noi vediamo delle cose insieme, le vediamo allo stesso modo, non perché abbiamo la stessa opinione, perché andiamo nella stessa direzione, guardiamo allo stesso punto insieme. Questo è quello che ti puoi aspettare in una relazione. E non voglio entrare in molti dettagli perché magari ci sono tante devianze su questo argomento. Sicuramente l'ascolteremo molto più approfonditamente domani. Spero ci siate ancora. Ma la cosa ancora più profonda è anche un'intimità fisica. E qui, il sesso, sì. Sì, va bene, è importante. È bello, l'ha inventato Dio. Tutto quello che ti fa un po' senso, che non capisci, che ti vergogni un po', che ti eccita in una maniera particolare, probabilmente è solo una visione distorta di quello che è la vera identità pensata da Dio per l'unità fisica. Perché tutto il resto è imitazione, come la Lamborghini. È come la Lamborghini, è imitazione. E tutto quello che va fuori dall'idea perfetta di unire delle persone fisicamente nel matrimonio, dove c'è l'impegno, dove c'è l'affetto, dove c'è il rispetto, dove c'è l'essere devoto al tuo coniuge, quello ha senso. Se non è così, è una, in questo caso preciso, volgare imitazione. E io credo che noi non ci possiamo permettere di buttare via la nostra vita, di sottovalutare le nostre relazioni, di pensare che quello che abbiamo intorno a noi fa tutto schifo. No, è importante quello che abbiamo, è un regalo, è un dono. E se un giorno avrai la gioia di essere sposato o sposata, ti dico che è una partita dove tu perdi. Perché? Perché l'unica cosa che ricevi è l'amore incondizionato di una persona accanto. Ti sembra poco? No, non lo è per niente. Quello che tu invece devi dare è molto di più. È tempo, è ascolto, è sincerità, è sacrificio, è cambiamento, è fedeltà. Oggi la fedeltà è diventato quasi un optional a volte, no? Sì, rimanere fedele a una persona, perché Dio è rimasto fedele a noi. E ogni volta che noi aumentiamo il grado della nostra conoscenza nelle relazioni, ogni volta che noi prendiamo un filo e lo tiriamo, se non lo agganciamo là, resta un filo appeso che non ha senso. E non costruiamo niente, non facciamo niente. Una volta sono stato, poco prima di sposarmi, esattamente penso 3 mesi prima di sposarmi, in un viaggio missionario in Thailandia. E c'è anche una foto. E c'è, ci siamo, non c'è la foto? Sì, c'è. Ci sono io e mia moglie. Stiamo costruendo una casa in un villaggio di pescatori perché c'era stato lo tsunami e con Gioventù in Missione abbiamo fatto questo lavoro. In questa foto io sono arrabbiatissimo, sto litigando di brutto con mia moglie, futura. Sapete che cosa stiamo facendo? Stiamo costruendo e scavando dei solchi dove ci sarà una colata di cemento che servirà a costruire il resto della casa. Voi non sapete, sono state 3 settimane d'inferno. C'è Antonio che è svenuto in una fossa, vi ricordo, perché era da scavare, lavorare per creare un solco solido dove fare una colata di cemento. Se tu non scavi a fondo nelle tue relazioni, quando vai a mettere il cemento, si versa su tutta la sabbia in una spianata informe, senza senso. Non serve a niente. ma se tu hai scavato, hai posto i solchi giusti nella tua vita, allora puoi mettere la tua colata di cemento. E quella farà restare uniti tutti, farà restare unita la tua famiglia, farà restare uniti i tuoi amici, le tue relazioni saranno salde. Se non hai scavato niente, quando butti il cemento si versa da fuori. Cosa vuoi? Non ti lamentare, non pretendere poi che gli altri abbiano la colpa delle tue negligenze o superficialità, perché se non ti impegni non costruisci niente. È brutto dirlo, questa è l'estrazione finale del dente. Fa male. Ma Dio ci dà una strada e dice in Colossesi 3: rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni agli altri, perdonandovi a vicenda. Se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione, il cemento. E la pace di Cristo, la quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Ma come si fa? Si fa perché se tu hai vissuto un'esperienza con Dio, e ritorno al concetto di perdono un secondo, senti, non puoi che capire il senso di questo verso, perché se tu non sei stato mai perdonato, se tu non riesci a perdonare, secondo me non sei mai stato perdonato. Se non ce la fai a ricostruire i legami con la tua famiglia, se non ce la fai a ricostruire i legami, a tirare il filo e agganciarlo lì a Cristo al centro, non hai sperimentato un vero perdono. Quindi se vuoi oggi rivedere delle cose, so che è una grossa sfida, a me mi fa un male impazzesco e lo so che fa anche male a voi, però questa è true love. Gesù non ha pensato, io mo adesso devo dare la mia vita per te e tu hai fatto questo, hai fatto questo, hai fatto questo, hai fatto questo, e l'elenco è lunghissimo. Gesù non si è vergognato, ci ha messo la faccia, è venuto e ha detto io ti perdono. Wow. Noi invece non vogliamo perdere la faccia perché abbiamo la nostra sicurezza, il nostro modo di essere che tutti devono rispettare. Io non ti chiederò scusa. Se arriviamo a questo e siamo anche, spesso succede anche nella nostra cerchia di amici più stretti, magari anche in chiesa, che tristezza. Non ha senso. Questo è true love, rimetterci la faccia. E più il tuo interesse nelle relazioni aumenta, tu perdi la partita. E Gesù ha perso la partita con te, perché ti ama. Ci alziamo in piedi. C'è scritto in Osea: io li attiravo con corde umane, con legami d'amore. Io non so se oggi i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti, anche i tuoi legami sono appesi a un filo. Adesso non voglio distruggere il lavoro di Salvatore. Non lo farò. Però se questo filo non è tirato ed è tenuto qui al centro da Cristo, abbiamo bisogno di pregare insieme. Quindi non perdere tempo, non c'è solo un'idea di creare una buona atmosfera con la musica o avere il momento ideale per poterlo fare. Se sai delle cose che sono rotte nella tua vita, che sono appese e che non sono tirate e legate a Cristo in un centro preciso, che è quello, perché Lui è il centro, Lui è il senso delle cose, Lui è l'idea di tutti i miei interessi, di tutta la mia intera esistenza. Se non è questo, hai solo fili appesi. Io non voglio più stare a un filo appeso. Io voglio legare la mia vita a Cristo. Io voglio che oggi possiamo fare una cosa insieme. Innanzitutto, se qua ci sono delle cose in sospeso, possiamo prendere il tempo per portare il nostro filo appeso a qualcun altro e dire: mi dispiace. Poi, l'ha fatto Gesù, non ho capito perché non lo possiamo fare noi. Puoi farlo. E ancora voglio pregare con tutte le persone che vogliono affidare a Gesù tutte le cose spezzate. E so che ne abbiamo in famiglia. Non ci sono situazioni perfette, nessuno ha una vita perfetta. Non ti sto dicendo che tu meriti una vita perfetta. Sì, lo meriti, ma dai la tua parte da fare. Se la tua famiglia, nella tua famiglia ci sono cose spezzate, per piacere, vieni qua avanti che preghiamo per te. Non stare a perdere tempo, non è un appello sentimentale, è un appello di decisione. Se hai qualcosa di rotto nella tua famiglia, vieni qua e preghiamo per te. Se ci sono delle cose rotte nelle relazioni con i tuoi amici, vieni qua e preghiamo per te. Se ci sono cose rotte nei tuoi sentimenti, se le cose che sono state distrutte dal diavolo, tu pensi non abbiano rimedio, Dio vuole restaurare una nuova relazione sentimentale per te. Perché Lui è il Dio delle relazioni. Lui vuole una relazione con te e vuole che tu prendi relazione con qualcuno.